Non portate te. Ma che c'eri tu? No, ma ero io che stavo provando. Ah, stretta ancora, cioè, c'è tanto il dottore, si dà le stesse non entra, i pesci, eri già qua. No, non ero qua, sto accendendo e si attendo a te con la portante. Allora, sono tutto il tanto portantito, sì, qualche volta bisogna farlo. Infatti, quello lì c'è anch'io, Speriamo che mi prenda il vizio adesso a mettere la portata. Si sorprenda. Stanno mandando. A me è fatto perché nessuno per qui possa mettere la portata tranquillo. Sì. No, no, no. Perché io mi ho detto guarda perché nessuno la portata, capito? Mi piace così a me. Andare. Sì, va bene, va bene, ma te. Ha giocato di una portaccia, lo saranno. Avanti, sì, troppo avanti. Troppo avanti, non c'è nessuno. Portaccia la metto, magari. La metto magari quando sto provando, anche se sta uscendo, poverò. Ma si no, direttamente. Ma perché la messa a portante a che cosa? Sì, c'è un problema. Vabbè. No, va bene tutto. Ma ci sono quelle che stanno anche a portante anche se c'è. E per cui. Ognuno fa quello che crede. Ragazzi, no. Siamo in casa lì. No, ci siamo noi. E allora, cosa mi racconti? Racconta. Ma cosa te lo puoi raccontare? Non faccio nulla. Quanto già predicere che ti sto tornando? Io mi sto comprando la campagna oggi. Come se l'ha tagliato un pezzo del vostro coltivatore. Allora l'avevo portato su l'altro giorno, me l'ho tagliato, l'ho portato giù oggi e l'ho piantato e ho visto che va bene e per cui avevo portato la qui. Ma come ha pronto? Tranquillo, può lavorare tranquillo. Lavorava lo stesso prima, perché era un riparo, un riparo quando se lo avessi sbagliato a toccare il quattro, c'è un sinistro di olio, capito? Perché si manca quattro, non si sa che è il sinistro, e per cui è così quello specchio di ferro che ripara il sito, va benissimo allora, la buglia. Ho visto, l'ho provato, va bene, per cui. Da due ero così, stamattina me l'ho saldato e allora stasera me l'ho soppiattato. Ho provato, va bene. A me la posso far fare molto zappo, capito? Infatti è così, purtroppo. Purtroppo no, sembra una cosa che bisognava fare, capito? Per cui, perché, tanto ogni tanto qualcosa c'è sempre. Come coltivatore sono 32 anni, che ho cambiato solo la casa pesce, ma è sempre altro ma corpo fatto, è una cadenata. Non vuole che è buono. Allora la roba sempre vecchia, sempre buona. Ma sono beato tutto, sempre corso, capito? Per cui quando c'è a cambiare l'olio, io ho sempre cambiato anche prima del periodo. Il filtro lo stesso. E per cui quello del differenziale è del cambio controllato sempre, per cui era sempre perfetto, per cui grazie a Dio sta sempre andando bene, va? Tecnologia almeno rimane sempre in funzione, in modo. Andiamo qui, grazie. cacca. Sarò quasi 8 cavalli e per cui va benissimo, cacca. Lavora. Ciò si ferma, io lo prendo, si ferma. Sempre tranquillo. Sono così. Almeno fuggire a posto, non lo senti in ordine. Esattamente, perché quello è un oggetto che serve in campagna. Tre volte all'anno lo uso, capito? Lo uso tre volte all'anno. Però ogni volta che lo uso, due o tre ore. Ogni volta, capito? Per cui mi faccio tutto, in tre ore mi faccio tutto, capito? Sì, infatti, così. Sto così, purtroppo. Ehi, già va bene. Tre die. Un martello, almeno mi sono svagato un pochettino, va. Ma lui, ragazzo, non ti dici. Vabbè, ieri non sei già, c'è la mattina che ieri sera. E oggi stamattina, io sono stato a Bucatelli, questa sera. Così che io oggi pure io mi sono svagato, va. Aspetta, chi è che vuole entrare? Ma così non andare come che entri, certo, mi sottorregge, Gian Mario mi sottorregge, chi è? Tu vai da pogare su Gian Mario, che ti sottorregge. Ma chi è che si permette a? Che ci permette a fare queste cose, so. Illuminami. Sono andato di casa, Buonasera, Manuel. Ciao, Manuel, buonasera. Cazzo. Oggi per me si cazzo a questa rabbia, cazzo. Vabbè che sono piccolo, è vero, Ciao, fai la prova. Andare. Hai visto, so. È troppo bella, e allora vabbè, alle cose sì, hai detto, hai detto, fai so che la gigante. Ci vedo che la gigante, Giulia, certo, ci sono colesterolo, quanto sarà alto. Non c'è l'altro, ecco, questi loro, ecco, c'è l'altro, ecco, diglielo Manuel. Ma tu non ci crede. Non come abbassi tutti chi è come lavori, capito? Durante la popolazione no, per fare l'inizio e la fine, così è. Ma tutte le artistiche, praticamente gioca troppo, tutti chi, capito? Allora fa quell'effetto. Cosa bisogna fare con acqua e microfono? Bisogna guardarlo, guardare a vedere cosa si muove dentro. Sì, proprio, Quello che gioca, magari anche consumato può essere anche consumato, perché fa quell'effetto. Ma quello come la pelle col microfono, Manuel. Ma è spettacolo una cosa del genere, comunque, quando sta parlando, no, e lo fa all'inizio e alla fine, per cui già riesce a passare benissimo. No, non le batterie a quello, no. Non le batterie a cosa che gioca e fa quelle cose. Così è so. Io sicuramente qualche cosa che come bolle fa il difetto. Oh ma quando cucina la pasta, butta che le mezza alla pasta e dopo lo togli, vedrà che dopo funziona bene. Quando cucina la pasta, se lo butti in mezzo e dopo faccio che non sono più a vedere, perché sto qui. Ma aspetta che te lo fa, capito? Ma aspetta, gioca, ecco, esattamente, sì, gioca, fa quella... All'inizio e alla fine, capito? Per cui, durante la modulazione non lo fa, che è perfetto, capito? E vabbè, si sta cantando nel campo e si dico, perché è periodo di cambiare un altro, perché lo altro no. E vedo un po' là, non è che erano pensai, va. Ah, momento, lo fa un momento, tutto lì. Vai sto. Sì, vabbè, stiamo facendo una sessione noi, quindi andare in una sessione. Ma non facciamo, vorrebbe dire? Sì, andare, già, ascoltiamo lo stesso. Lascia fare, lascia fare e fa a casa, e fa ancora tutto settembre. Grazie. Ma già pure, chi sa, prima di ottobre. Allora, il periodo dei temporali, sa. Vabbè, già è. Forse non fosse avanti, si sa che non fosse avanti. Grazie, era per già. A chi tocca, ragazzi, alla vista. Sta fatto poco, ragazzi. Sì, in pianura, per forza l'acqua non corre, se la cattura tu. Guarda, ci sono le fognature, i fiumi, i cattura, che scorre, guarda, per forza c'è la cattura tu. Sì, per forza, sono di Bologna, sono senza cresciuto, la regione non hanno mai fatto nulla, per forza c'è la cattura tutto. Come sono il tuo di livello, vabbè, c'è una compagnia di farlo. Ma è dove va l'acqua, se non scorre l'acqua, tu. Ma forse c'è la cattura, perché non scorre, è tutto pianura, anche se metti i punti per il ritiro delle acque. Ma se non c'è la pendenza, non puoi farli a camminare l'acqua. Ma anche quello, perché non le puliscono. Non so i loghi dei loghi, non le pulirò. E io mi sono appeso di loghi. Guarda, i loghi non li mai puliti. Ma si forma sempre lì. Anche se li pulisce il coso, si forma sempre lì. La pendenza fa tutta quanta lì l'acqua. Mi allontano un attimo, vengo subito. Ma è così, infatti. Certo. Sì, no, che tu sarebbe se non andiamo proprio a irte a dare i mondi. Certo. E avete accaduto tutto, mi sarà pure di farla casette. E poi e cose di gioco. Però è tutti stagliati che non è buoni, e allora si blocca i lipi e non si ci leva. E allora? Certo, io per la pandoccia. Io mi sono la Madonna, andare dalla Madonnina, no? Certo, lì mi sono un ruscello, però un ruscello si andava tra i sei figliacini di suore, si parlava la mezza che da parte della riga, si parlava. E poi sai cominciato a fabbricare, si è andato il buffo, si hanno chiesto alla cattura di vita. Vediamo che lo succede, allora, e noi a fare la casella, si attende di... e chi mi ha fatto la casella, l'unica volta che faceva, fa pure, si allaga, per cui tocca a fallire questi voti. Allora c'è macchina di cifremma, ne cazzo passare con le vanta, e sempre dei cappelli, ma i bambini sono pieni, e non scola leva, capito? I bambini, ma non scola leva. Sono pieni, se tu non li puri, non corri, a chi cazzo sono puriti, non è che i cazzo ammazzano, a chi sono buchi minori, se te li fa pagare più crisi, più mani hanno da poter esistere, ma invece non si paga, e si paga poi del tanto, capito? Anche si paga piano piano, cioè si è arrivato il zoppino e parti il sole, a novembre dell'anno politico. Ma vai, dico, un nuovo sindaco deve tornare a pulire. Ecco cosa è. Quando pulito mi torna ogni volta. E piove. Ok, non mi guarderò, sai, io non conosco il colore, è un pochetto che viene finito. Ecco cosa è. Ecco, fatto, data, data, a portare le leggi, la strada. Perdo, questa è la griglia, no? Beh, se tu lo vedi, è pieno, pieno. Non vanno mai puliti, mai. E l'hanno fatto da Taleggio. Adesso, sì. Quanto mando parte, mi sono 5-6 bambini. Non sono tutti pieni a zeppa a zeppa, mai puliti. Ma per una serie di impiego, già passati i prezzi, già passati, non ne hanno fatto. Allora, qua, per aggiornare qua, sono tutti puliti, diciamo. Ecco lo so, se non le bollini, poi portare a rimanere e si innanda. Beh allora, c'è Piero, il bocco della bocca di zuppi, tutta la valeva. C'è Piero, capito? Che ti puoi immaginare come fa, come si fa a correre l'eva? C'è Piero. E adesso la faccio queste cose, capito? Io non ho mai pulito, tra l'altro. Mi ha dato la paletta, no? Magari mi sei anche io che l'avevo qui, forse se ne sono dimenticati, di pulirli no. Forse se ne sono dimenticati così, di pulirli, sì. Perché in tutti i giorni sono passati, erano i pulirli. Chissà che fanno, ma se decidi a Rosina di fare i pulirli. Chissà che si scelga a fare la maglianza, niente. Anche dove pulirlo è puro, un cavo abbastanza così, è mezzo brutto, mezzo giorno, mezzo pieno, so. Ah, pure qui si non li pure il male, li pure, perché pulisce me. Oh, io non ero che fa segnare l'autosfondo, pure, fa pulire. Perché io prendo pure con l'autosfondo. Perché sta. Oh, yeah. Ma, a parere che si riporta. Vai, ma dov'è? Oh, yeah. Rimane già più intaggiato, ecco cosa è. La gente ci dovrebbe stare calma e buttarla dopo la devono buttare qualcosa, non ho trattato capire niente. E se già fosse una venta, ma prima di fare le cose non si deve fare, ma poi ci va a mettere in piedi. Ecco lo stato, quelle cose, non bisogna buttarle, ma con la carta igienica, non bisogna buttarle. Anche se in certi punti fa posizione e lì si tiene e blocca tutto. Basta, però i bocchetti di due affoli di muro, capito? A modo di curiare la cosa, capito? Perché dopo i bocchetti vuole mettere il corso, oh, yeah. E vabbè. che ti sei dimenticato, che dice l'ultimo sette da lui, Marco. Sì, no, però non passa la torre. Facciamo ciò che facciamo il tuo scudo a fare il passo al fine. Se io intanto a bene, hai visto intanto bene per stare in pace. Ma che arrivate le cose più chiamate le fregole, allora, il giubbo prima di tutto voleva più crossi. Invece sono più cristi, per cui già lo qui si parla di Dio, oia, bella. Vabbè, caro, è un prezzo mio figlio che è forse sì. Già ci sentiamo, da buon provvedimento, ciao Tom, il prevedente poi va, chiudo. Sì, ok, ci risentiamo alle prossime. Ciao Gian Maria, ciao Emanuele, ci risentiamo. Ok, ciao. Ciao chiudo. Attenzione canale 23, c'è qualcuno, eh? Attenzione canale 23, c'è qualcuno. Chi è? Avanti.